537. Braciuola di manzo ripiena arrosto. Una braciuola di manzo grossa un dito del peso di grammi 500, magro di vitella di latte grammi 200, prosciutto grasso e magro grammi 30, lingua salata grammi 30, parmigiano grattato grammi 30, burro grammi 30, fegatini di pollo numero 2, uova numero 1, una midolla di pane fresco grossa un pugno. Fate un battutino con cipolla quanto una noce, un poco di sedano, carota e prezzemolo, mettetelo al fuoco col detto burro e rosolato che sia, gettateci la vitella di latte a pezzetti e i fegatini, poco sale e pepe per condimento, tirando la carne a cottura con un po' di brodo. Levatela asciutta per tritarla fine con la lunetta e nell'intinto che resta fate una pappa soda con la midolla del pane, bagnandola con brodo se occorre. Ora, fatto tutto un impasto con la carne tritata, la pappa, l'uovo, il parmigiano, il prosciutto e la lingua tagliata a dadini. Composto così il ripieno, tuffate appena la braciuola di manzo nell'acqua per poterla distender meglio. Battetela con la costola del coltello e spianatela con la lama. Collocateci il ripieno in mezzo e formatene un rotolo che legherete stretto a guisa di salame, prima dalla parte lunga e poi per traverso. Infilatela nello spiede per la sua lunghezza e arrostitela con olio e sale. Sentirete un arrosto delicato, il quale potrà bastare per 6 o 7 persone.